mi spiace proprio, ma non riesco a rallegrarmi per la condanna del senatore Dell'Utri. Sarà un tipaccio, non ne dubito, un eminente nemico del popolo, artefice sommo dell'ascesa di Berlusconi e capace di intrattenere i rapporti con la peggio gente sulla piazza, come del resto è ovvio per uno che ha fatto carriera vendendo spazi pubblicitari. Ma una condanna per partecipazione esterna a un'organizzazione, o concorso esterno a partecipazione, non ricordo bene, non mi sembra qualcosa che si possa in coscienza provare. Lo vieta se non altro la logica: se a un'organizzazione, quale che sia, si partecipa, vuol dire che si sta al suo interno in un modo o nell'altro. Se invece ci se ne tiene fuori, all'esterno, si potrà forse collaborare, concorrere, simpatizzare, quello che volete, ma partecipare proprio non ci si partecipa. La formula naturalmente non è stata inventata dai giudici di Palermo, immagino anzi che sia prevista dalla legge, sia stata elaborata dai più illustri giureconsulti per allargare lo spettro dei comportamenti punibili. Ma quando i magistrati cominciano a preoccuparsi appunto più della punibilità che della logica dell'accusa, il cittadino ha tutti i diritti di preoccuparsi. È difficile, per esempio, non pensare che un'accusa di partecipazione esterna serva soprattutto nei casi in cui gli inquirenti non siano riusciti a provare che ci sia stata una partecipazione normale. Il fatto che oggi a essere colpito sia un pezzo grosso dell'area governativa non dovrebbe interessare. E tra l'altro non mi sembra che con strumenti del genere la lotta alla mafia abbia fatto dei gran passi in avanti. Questo non significa naturalmente che il senatore Dell'Utri sia un perseguitato o che i suoi amici abbiano in tema di diritto sempre ragione. Non significa che si possano inserire in un disegno di legge concepito con tutt'altro scopo delle norme che tutti sanno perché abbreviano i tempi di prescrizione, o che ci possa sbarazzare con un'alzatina di spalle delle ragionevoli obiezioni che il buon Ciampi, una volta tanto, ha mosso alla presunta riforma dell'ordinamento giuridico. Significa però che il problema della giustizia in questo paese non lo si può risolvere soltanto con la difesa a oltranza dell'esistente. La lunga rissa che ferve da anni attorno ai giudici e ai loro poteri tende a configurarsi sempre più come uno scontro di interessi privati e di casta, del tipo noi vi togliamo più potere che possiamo perché sennò ci condannate e provate solo a toccarci e vedrete cosa vi capita. Dei problemi del cittadino normale, poveretto, della macchinosità di tutto il sistema, dei tempi, dei costi assurdi, delle distorsioni che lo caratterizzano, sembra che non si preoccupi nessuno. Non se ne preoccupa in particolare la sinistra, che si mostra sempre più convinta che basti per avere la coscienza a posto dare sempre e comunque ragione ai giudici, anzi più che ai giudici alle procure. Tanto è vero che i suoi esponenti hanno fatto un discreto casino per la condanna di Dell'Utri, la prescrizione a Berlusconi e il salvacondotto a Previti, ma non hanno speso una parola sull'aumento delle pene e il peggioramento del trattamento dei recidivi che insieme al salva Previti è stato introdotto. Provvedimento che servirà più che a combattere, come si dice, la delinquenza, ad aumentare il numero dei poveri cristi in galera. Sarà perché su questo probabilmente i magistrati sono d'accordo, o perché un interesse troppo concentrato sui casi personali illustri tende a distrarre dai problemi d'insieme. Ed è un bel guaio, eh? È un bel guaio, perché presto o tardi, a Dio piacendo, il centrodestra se ne andrà. E i Previti e i Dell'Utri smetteranno di nuocere. Ma con certe leggi borboniche e liberali che ci troveremo sul groppone dovremo continuare a fare i conti. Dopo aver ricordato il collega e l'amico con tanta sagacia, con tanta abilità retorica, tanta brillantezza, altrettanta lucidità, con tanta raffinatezza letteraria e fin senza negarsi un tanto di snobistico birignao, tutto tanto e tutto forse troppo per un discorso che alla fin fine a virtù altrui e non alle proprie avrebbe dovuto essere dedicato, dopo aver dato di sé dunque quest'ottimo attestato e prima di accogliere i calorosi plausi che è ormai convinto di meritarsi, corona il suo intervento pubblico confidando che il morto, in vita, è il caso di specificarlo, il morto non gli aveva mai parlato male di nessuno.